tutto pronto? Fiato sospeso? Si comincia! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Luis Adriano, il suo controllo per Bacca! Rieccolo! Bacca torna al gol dopo quattro partite. Greco messo a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Hellas Verona, il fallo su Greco. E c'è anche il rosso. Come cambia una partita. Rincorsa di Toni! 11 metri di speranza per il Verona, che pareggia con il secondo gol in campionato di Luca Toni. Finisce 1-1 tra Milan e Verona, secondo pareggio consecutivo per il Milan dopo quello contro il Carpi, una frenata dunque importante in ambizioni di risalita in classifica per il Milan. Primo punto invece per Gigi Belneri sulla panchina dell'Hellas. Questo Milan-Verona che si è appena chiuso a San Siro 8-0-0-24, apriamo qui in attesa di Napoli-Roma, della vigilia di Juve-Fiorentina, del commento sui sorteggi di ieri dell'Europeo, però apriamo qui il processo al Milan, a Mihajlovic, perché non c'è più tempo. Secondo pareggio consecutivo in 7 giorni contro una piccola, doveva essere la grande striscia di vittorie per riportare Mihajlovic a livello zona Champions. Prima di Natale il Milan ha fatto 2 punti contro Carpi e Verona, è settimo, 25 punti come Inzaghi un anno fa, meno 11 dall'Inter, meno 6 dal terzo posto, ma mancano le 2 partite di questa sera che allungheranno ancora molto probabilmente questa distanza. Li avete sentiti i fischi di San Siro? Noi vi chiediamo di chi è la colpa di questa crisi, di chi è la colpa del Milan che è sparito. 800 24 00 24, vi prenotate da subito, poi arriva anche Pierluigi Pardo. 349 238 6666, se volete scriverci anche su WhatsApp. Franco Ordine da San Siro, ciao Franco. Eccomi qua. Milan che è sparito. Sì, il Milan devo dire clamorosamente è stato assente, ingiustificato. Nella prima, diciamo, il primo tempo ha sbagliato tanto, assente ingiustificato, diciamo, dal punto di vista del gioco, e poi invece ha fatto forse le cose migliori appena è rimasto in 10, che devo dire una roba veramente inquietante, diciamo, da come si è espresso complessivamente. Questa è la dimostrazione che al di là di tutto eccetera, della quali forse non è certa, dello stato dello smalto per esempio oggi del suo campista migliore Montolivo eccetera, al di là di tutto c'è proprio una carenza di gioco che non è giustificabile e che non è e che non si può spiegare con la ridotta cifra tecnica o addirittura come sostiene la curva con gli errori sul calciomercato. Sì, cosa che porta direttamente alle responsabilità di Mihajlovic. L'abbiamo lanciato anche su Twitter il sondaggio, poi fra un paio di minuti vi do anche il primo aggiornamento, cioè di chi è la colpa: Berlusconi, Galliani che fa il mercato, Mihajlovic oppure i giocatori. Oggi è stata anche un po' colpa di Valeri, lo diciamo così sgomberiamo immediatamente il campo, in 2 o 3 chiamate che potevano essere decisive in una partita comunque finita In pieno equilibrio. Valeri sicuramente non ha favorito il Milan, però il discorso sull'arbitro a livello di valutazione lo chiudiamo qui, insomma. Franco, ma scusami, ma a che cosa ti riferisci? Perché a me non pare che abbia fatto dei danni. Ma guarda, c'è un fuorigioco sbagliato, seppur di centimetri, nel primo tempo, un'azione che il Milan poi avrebbe quasi certamente chiuso in gol. C'è nel finale una spinta abbastanza evidente di Marquez su Bonaventura, poi sono gli episodi, si può discutere per delle mezz'ore, però diciamo era più rigore che no. Diciamo che quando le stagioni vanno così poi succede anche questo. Sì, ma io onestamente io escluderei ogni responsabilità dell'arbitro, perché qui c'è proprio la responsabilità unica, diretta del Milan, del suo calcio. Poi questo fatto di continuare a cambiare e modificare lo schieramento, ti dà l'idea del fatto, cioè fai entrare per la prima volta De Jong che è in debito di condizione eccetera, magari lo fai entrare a mezz'ora. Insomma, io devo dire francamente che proprio anche sulle scelte diciamo più elementari, più semplici, questo allenatore mi convince pochissimo. Pensi che si possa aprire il discorso su un'eventuale sostituzione? Già oggi, intendo. A questo punto non credo già oggi, però secondo me a questo punto se ne riparlerà durante la sosta, perché ho l'impressione che poi bisogna anche vedere giovedì, perché se giovedì non passa il turno in Coppa Italia a questo punto la situazione diventa tragica se non drammatica. Ma come la prende secondo te Berlusconi, che venerdì aveva cercato di aprire l'ultimo spiraglio di fiducia? Sì, ma è chiaro che la prende come non può che prenderla, diciamo, per il verso sbagliato, nel senso che non c'è risposta da parte della squadra e anche soprattutto da parte dell'allenatore, il quale secondo me continua a mostrare i muscoli durante le conferenze stampa, e invece le sue migliori energie le dovrebbe dedicare al gioco di questa squadra, e oltre che alle scelte. Sì, perché poi ci sono quelle parole, quelle che abbiamo sentito ieri, esatto. Credo che rilette oggi Mihajlovic forse userebbe dei toni diversi, certo. Al netto di questo risultato, ritieni ci sia qualcosa da salvare oggi del Milan? Ad esempio c'era l'esperimento di riportare Luis Adriano con Bacca, qualcosa si è visto? Ad esempio il gol di Bacca nasce da un assist di Luis Adriano, salviamo qualcosa? Ma guarda, io ti dico questo. Poi se tu c'hai soltanto due attaccanti veri, centrali, da utilizzare, cioè Bacca e Luis Adriano, se tu te li giochi, poi c'è stata l'espulsione di De Jong e quindi va bene, ma se tu te li giochi tutti e due subito, poi durante la partita non è, cioè qui proprio un criterio secondo me di fondo, un parametro proprio diciamo elementare, che devo dire, perché lui che cosa ha pensato? Siccome le ultime tre partite la squadra non ha fatto gol, dice per fare gol metto un attaccante in più, ma non è questo il punto. È vero che nel primo tempo il Milan ne ha sbagliati tanti di gol, ma tu devi migliorare il gioco per avere una maggiore produzione di calcio offensivo, non mettere gli attaccanti. Non è che col numero degli attaccanti tu vai da qualche parte. Ti do l'aggiornamento del sondaggio. Di chi è la colpa del fallimento del Milan? Gagliani 39%, Berlusconi 26%, giocatori 21%, Mihajlovic 14%. Ma perché questo è nell'immaginario collettivo, per via della contestazione della curva, si sono messi in testa che il responsabile è Gagliani, invece non mi pare proprio che sia così. Questo Milan può giocare anche questo Milan meglio. Grazie Franco. Ciao. Grazie Franco Ordine, il giornale da San Siro, 800 24 00 24, quindi se volete chiamare ci sono già Francesco da Prato, Marco da Brescia. Buonasera. Buonasera Presidente. No. La pregherei cortesemente di non rivelare la mia identità. La sentiamo un po' strano, sarà il risultato, no? Non dica neanche Presidente, no. Per favore, sì. Sono in incognito, quindi meno coeso. Parla anche con... Meno coeso del solito, ho anche il fazzoletto sulla bocca per non farmi riconoscere. Dovete sapere che sto telefonando senza il permesso del nostro allenatore. Ma è per questa cosa qui che... Sì, l'altro giorno ho fatto degli appunti tecnici dati tra Montolivo, ma rigorosamente col permesso di sinistra. Ma vabbè, non diciamo che c'è il Presidente Berlusconi al telefono, contento del pareggio col Verona, no. Siamo sicuri però che Mihajlovic mi sente? No, senza permesso. Vada tranquillo, si sfoghi. Allora, si sfoghi. Dopo questa partita poco coesa, dovremo decidere se esonerare dall'incarico l'allenatore. Ci sarà una notizia, ma prima chiederemo il permesso. Ma no! 800 24 00 24. Tutti convocati. Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. 800 24 00 24, processo al Milan aspettando la voce di Mihajlovic dagli spogliatoi di San Siro. Francesco da Prato, Marco da Brescia. Marco, Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Prego. Guardi, una considerazione rapidissima circa il sondaggio che state conducendo. Ovviamente è scontato, non c'è una risposta univoca, no, per un sondaggio di questo genere. Situazione molto difficile per la società, le colpe sono di tutti, dei giocatori che forse non seguono in maniera coerente l'indicazione del tecnico, colpa del tecnico che non le però sa. Però è interessante che chi scrive da casa, ad esempio Salvi, così è, Salvi Mihajlovic, che invece dice Franco Ordine non sta dando un gioco, e io lo condivido, secondo me è il principale responsabile, perché poi certo, non si chiede al Milan di vincere lo scudetto, ma questo Milan sta oggettivamente giocando al di sotto di quelle che possono essere le sue potenzialità, Marco. Questo è anche il mio parere. Franco Ordine è un grande osservatore del Milan da tanti anni, quindi ha un'oggettività diversa, è un giornalista, non è solo un tifoso, anche se è un grande tifoso della squadra. È chiaro che il pubblico è un pochino più soggetto all'emotività del momento, e contestare la squadra, contestare il presidente è un pochino lo sport, no, di questo periodo, più che giocare a calcio per i tifosi del Milan, e di conseguenza questo è un po' il risultato. Io invece, più che guardare a chi sono responsabilità al momento e più che guardare quali sono stati gli errori recenti, mi cercherei di concentrare su cosa possiamo suggerire a Mihajlovic, perché mi pare un pochino senza idee, non ha puntato su degli uomini. Guardi, facevo riferimento a qualche giorno fa, l'Inter ora ha condotto queste ultime due o tre partite in spolvero, si è riposizionato, però ha passato qualche settimana Mancini un pochino meno tranquilla, e soprattutto alcuni suoi giocatori. Però ha dato l'idea di essere un manager all'interno della squadra, assolutamente coperto dalla società, allineato un po' all'inglese, ha saputo difendere gli uomini anche pubblicamente nelle interviste con la pacatezza del caso, e ha dato probabilmente un minimo di tranquillità a chi in quel momento non andava bene, e ha puntato anche su un turnover, cosa non facilissima per chi sta in cima alla classifica. E sì, forse però, anche un però, Marco, però Marco, alle volte il turnover serve anche per confondersi le idee, se come nel caso del Milan le idee sono già abbastanza confuse in partenza, perché giustamente notavamo prima, oggi si tornava al 4-4-2, si ributtava Luis Adriano vicino a Bacca, si spostava Niang esterno, e Niang era stato uno dei migliori delle ultime settimane, sicuramente questo non giova a quel poco di continuità che una squadra come il Milan in difficoltà può trovare. Francesco da Prato, Francesco. Sì, buonasera Capuano. Eccoci. La convocazione. Intanto premessa, detta la Mughini, io abborro tutti gli allenatori sgualciti e scravattati alla Garcia, anche se dall'accento si capisce che sono romano e tifoso della Roma, quindi un allenatore che si presenta già spettinato, sgualcito, scravato al fischio d'inizio, già fa capire un attimino l'approccio della propria squadra. Nonostante questo, io sono convinto che una squadra che Sabatini ha costruito in tre anni di questo livello non possa non vincere lo scudetto. Perché una squadra che comunque ha uno come Dzeko, che può avere momenti, ma che dopo Higuain, secondo me, è il più forte attaccante che c'è in Italia. Una squadra che ha Pjanic, una squadra che ha Salah, comunque Cervinho, uno come Totti che le sue 15 partite potrà comunque farle. La difesa è quello che è, ma io penso che un collettivo come questo non possa non vincere lo scudetto, più che altro con una Juventus e un Milan fuori gioco. Cioè, sì, secondo me la certezza di vincere lo scudetto non te la dà nessuno, di sicuro qualcosina di più, Marco, i tifosi della Roma hanno ragione ad attenderla. Ci sono intanto le formazioni ufficiali di Napoli-Roma, allora le diamo: Napoli con Reina, poi difesa 4, Isai, Albiol, Koulibaly e Goulam, a centrocampo Allan, Jorginho, Hamsik, poi Calleoni, Higuain, Insigne, quindi la formazione titolare di questo inizio di stagione per il Napoli. E la Roma invece 4-3-3, quindi c'è qualche cosa di diverso rispetto a quello che ci si attendeva. Szczęsny in porta, Florenzi, Rudiger, Manolas e Digne in difesa, Pjanic, De Rossi, Nainggolan a centrocampo, Iago Falche, Dzeko e Salah in attacco. Questo l'11 scelto da Rudy Garcia per Napoli-Roma, che comincia alle ore 18. Mi fate sentire Mihajlovic su Berlusconi ieri in conferenza stampa, e la risposta di oggi di Galliani, perché oggi Galliani prima della partita qualcosina ha detto, sentiamolo. Su quale punto ha battuto il presidente quando vi ha incontrato ieri? No, niente di particolare, se non come sempre il fatto di voler vedere palla a terra piuttosto che la palla lunga, quindi dei fraseggi corti piuttosto che dei passaggi lunghi. Quindi la palla tecnico vi ha parlato? Sì, sì, ma il presidente fa analisi a tutto tondo. Sempre con permesso dell'allenatore. Sempre. Questo va sottolineato perché l'ha detto anche lui. Perché ogni responsabilità, massima responsabilità per ognuno per il ruolo che ha, ecco. Il presidente fa il presidente da 30 anni, io faccio l'amministratore delegato da 30 anni e quindi abbiamo una nostra linea. È chiaro che chi arriva per il primo anno al Milan deve anche un attimo adattarsi a questo modo di vivere, modo di essere, ma al di là Sinisa continua ad avere e ha un buon rapporto sia col presidente sia col sottoscritto, quindi poi ci si adatta, sai, come quando si cambia moglie bisogna poi adattarsi, e quindi è un po' uno, un po' l'altro. Il presidente Berlusconi dice sempre una cosa carinissima che io ho imparato a fare in questi 30 anni: quando trovi uno concavo fatti convesso, quando trovi uno convesso fatti concavo. Credo che questo, se tutti l'applicassero, si vivrebbe tutti più sereni. Questo duetto è la risposta di Galliani oggi. Rei nei microfoni di Sky. Napoli-Roma sta per cominciare, no, è finita. 800-24-00-24, le formazioni ve le abbiamo date. Tiziano da Pescara, Tiziano. Sì, buonasera. Buonasera. Niente, giusto così per dare il mio pensiero, il mio tributo alle partite del Milan. Sì. Parlano di colpe di società. La società penso sicuramente, perché non ha fatto nessuno da anni, che non fa nessuna scelta, ha tolto Ibrahimovic, Thiago Silva, Pirlo, eccetera, non hanno investito nessuno. Si danno colpe alla coppia Bacca-Luis Adriano, che penso sia l'unica che ha prodotto qualche po' di entusiasmo, almeno per quanto mi riguarda, all'inizio. Abbiamo visto stasera che Bacca-Luis Adriano... Sì, che Bacca-Luis Adriano qualcosa hanno prodotto, Tiziano? Non gioca mai, perché li fanno giocare insieme e continuano a tenere in campo un Montolivo, non so che cosa... Sì, però Tiziano, è un po' disturbata la linea. Montolivo che oggi sicuramente ha giocato male, però è anche vero che senza Montolivo il Milan aveva degli evidenti limiti, degli evidenti problemi di qualità metà campo, e quindi Montolivo serviva e serve forse ancora per cercare di alzare il tasso di qualità. Enzo Bucchioni, ciao Enzo. Ciao, ben ritrovati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Di chi è la colpa della crisi del Milan? Ma la colpa di tante situazioni non può essere di Montolivo. Oggi ha giocato male, di sicuro la società quando fa la programmazione estiva, quando ha fatto il mercato, lì c'entra Galliani, queste scelte sempre sbagliate, hanno investito tutto sugli attaccanti, sono anni che non comprano un vero centrocampista. Parliamo di Montolivo e Montolivo fa quello che può, è un giocatore che ha dei limiti, non da oggi, non è sicuramente un leader, lì manca qualcuno in mezzo che organizzi il gioco, che dia i tempi, che abbia quella qualità con la personalità insieme. Hanno cercato Witzel tutta l'estate e non l'hanno preso, salvo poi comprare attaccanti che già ne avevano in rosa. Insomma, queste sono contraddizioni. Sono deluso anche da Mihajlovic, io pensavo che con la sua personalità deve dare qualcosa di più. C'è un amico che ha scritto via WhatsApp al 349-238-6666, doveva dare almeno un'anima a questa squadra, ha fallito nella cosa più importante. Assolutamente, anche perché l'organico è sicuramente scadente rispetto ad altre squadre che vogliono, che lottano per lo scudetto, però è un organico importante. L'anno scorso con la Sampdoria Mihajlovic ha fatto molto meglio, ha dato un'anima, ha dato un gioco, ha dato una personalità a una squadra che è tecnicamente molto inferiore al Milan. Come mai il Milan non ha neanche personalità e non ha carattere? Puoi fare le partite, sbagliarle, ma io questo lo pretendo. Oggi il Milan contro il Verona né personalità né carattere, oltre alla mancanza di gioco. Sono questi secondo me le cose sulle quali riflettere. Sembra non ci sia neanche attaccamento da parte di questi giocatori. E qui chiamo in causa l'allenatore, perché evidentemente non ha trovato il suo ambiente, non riesce a esprimere le sue qualità. Probabilmente c'è il suo passato interista che torna a galla. L'ambiente Milan non riesce a inserirsi, a incidere. Poi sono tutte le fibrillazioni, le solite. Ha un senso pensare di cambiarlo adesso? Ora adesso no. Nella sosta, come diceva Franco Ordine, soprattutto se andasse male anche in Coppa Italia? Ma se l'ha letto Franco mi fermo, perché Franco, come sappiamo, è molto esperto delle cose rossonere, però io, parlando di calcio in assoluto, senza non lo farei adesso, anche perché credo, per quello che mi risulta, che Berlusconi abbia in testa di prendere un altro allenatore a fine stagione, quindi ormai questa diventa un'altra stagione di passaggio, magari cercando di prendere Conte a fine anno, se dirà addio alla nazionale, come penso. Il grande obiettivo è quello, sono 2 anni che inseguono Conte al Milan, non, 2 anni fa gli ha detto di no, come tu sai, come sappiamo, e ora ci stanno riprovando. È con Conte, dice Berlusconi, e io sottolineo e concordo, che è l'unico giocatore in questo momento che può trasformare qualsiasi squadra e fare quello che ha fatto la Juve, cioè dare personalità, dare convinzione, attaccamento, far creare un gruppo vero, cosa che il Milan oggi non è. Sì, non è un gruppo, io ribadisco, non ha neanche un gioco, se certo. Questa squadra oggi, con un mercato da 90 milioni che si può criticare, ma è comunque un mercato che ha portato anche giocatori importanti, perché l'anno scorso Bacca non c'era, Romagnoli non c'era, Luiz Adriano non c'era, Bertolacci oggi quando è entrato non ha fatto malissimo, se questa squadra qui ha gli stessi punti di Inzaghi un anno fa, qualcosa si può chiedere a Mihajlovic, col permesso, grazie. Sì, Enzo, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, ma a metà stagione di cambiare un'altra volta, io credo che il Milan andrebbe incontro l'ennesimo fallimento, almeno si barcamenano così, danno la colpa a qualcuno e tirano avanti. Sì, grazie Enzo. Grazie a voi, buon pomeriggio, a presto. Grazie, ciao. Enzo Bucchioni, 800 24 00 24. Scusa, sempre, sì, non, sì, non no. Dica questo, sono sempre Silvio, incognito Silvio. Perché non ho chiesto il permesso a Michele. Sì. Ho sentito le frasi di Galliani, sì, ma non ho capito il discorso, poco coeso, sinceramente. Sì, ma lei perché concavo, deve parlare? Perché deve parlare con davanti? Ma perché sono incognito, non posso rendermi, come dire, concavo e convesso, cioè significa che si deve adattare alle situazioni. Mihajlovic ci non lo sta facendo, secondo me, quindi lei, secondo me, Galliani si è già bevuto l'aperitivo. No, non è vero. 800 24 00 24, torniamo proprio con Mihajlovic, credo, Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Tutti tiri in porta e tutto. Io non parlo mai degli arbitri, però non sono scemo, perciò ogni partita, tante partite ci hanno danneggiato, perché questo non va bene così, non va bene così, perché non accetto, e lo stesso arbitro è stato anche quello di Firenze, che ci ha buttato fuori Rodrigo Elli su 2 falli, che subito 2 ammonizioni, un rigore che c'era e non ce l'ha dato, anche là settimana scorsa c'era un altro, io non l'ha dato, non si può andare così. Io, va bene star zitti e parlare e non dire niente sugli arbitri, però non posso più accettare queste cose qua, perché questa è la spinta che avevi visto anche dalla panchina, penso. Come fa? Sta a mezzo metro da lui, non vede, dai. Dai. Sì, di cosa stiamo parlando? Poi dopo pareggiamo, è normale che ci sono tutte le cose, è giusto, mi dispiace, come ho detto, per i tifosi, per la società e tutto quello, però non va bene così, non va bene così. E se io parlo degli arbitri che non ho mai parlato, significa che siamo arrivati al limite, non io, ma in generale, perché così bisogna fare più attenzione, perché qua ci giochiamo la vita e si fa così. Sinisa. Senti, questo era Mihajlovic, saluto Cesare Prandelli. Buonasera. Io Buonasera. Ci siamo fermati un attimo perché questo sfogo è degno di notizia e farà ovviamente discutere. L'avete sentito, Mihajlovic caricato a pallettoni con Valeri. Io l'ho detto in apertura, oggi c'è anche tanto di Valeri nel pareggio, perché ci sono almeno un paio di episodi in cui il Milan è stato penalizzato. Poi ovviamente l'analisi non si può fermare lì, ma quando un allenatore è in difficoltà, come è oggettivamente oggi Mihajlovic, Prandelli, poi escono anche queste cose, no? Certo, senza dubbio. Però c'è qualche problemino di sì. Collegamento? Pronto? Ecco, adesso sentiamo. Pronto? Prego. Okay. Prego. No, dicevo, in certe situazioni devi cercare di prendere le cose buone. Io ho visto Milan, paradossalmente, negli ultimi 25 minuti all'arrembaggio, non sembrava in 10, non sembrava in serietà numerica, molto intraprendente, molto capace anche di attaccare con più giocatori, quindi il buono in questa partita c'è. Cioè, poi è chiaro che poi quando entri e dai un giudizio sugli episodi, è chiaro che diventa abbastanza complicata poi giudicare la partita, ecco. Sì, c'è però la sensazione che manchi ancora un'identità di gioco nel Milan in questo momento, anche questo continuo variare tra moduli, soluzioni. Oggi veniva riprovata la coppia di attaccanti, ma queste sono situazioni che solo Mihajlovic può dare una risposta. Io sono rimasto a partita della Sampdoria, dove il Milan aveva dominato, dove il Milan aveva dato spettacolo, e quindi questo è il Milan che tutti vorrebbero vedere, i tifosi del Milan. Poi ha fatto un pareggio a Carpi, ma ci sta, in una, contro una squadra che in questo momento cerca punti in ogni secondo. La ricerca del modulo è una ricerca che sarà infinita, secondo me, perché tutti gli allenatori, soprattutto quest'anno, stanno cercando di cambiare anche partita dopo partita per non dargli vantaggi. E forse ci dobbiamo aspettare un po' da parte di tutti di vedere tante squadre che possono cambiare anche durante la partita. Forse è stato un po' sovrastimate quelle che potevano essere le potenzialità di questo Milan per il mercato importante, 90 milioni spesi. Poi in realtà questo forse è un progetto che parte e bisogna dargli il tempo di crescere. Esatto, ha ragione, è un progetto che parte, bisogna sempre dare il tempo alla crescita. Abbiamo sempre detto che è un progetto molto intrigante, ma è un progetto che va affrontato con la pazienza giusta. Cioè, io penso che sia così che deve una società pensare di fare, l'allenatore deve pensare di fare allenatore, Mihajlovic sta facendo quello che può fare, secondo me sta tirando fuori, lui ha cercato di coinvolgere tutti, di avere della società. Sì, difficile forse pensare a Milano, vale per il Milan, non solo per il Milan, comunque in un grande club, difficile pensare di avere quel tipo di pazienza. Proviamo a ripristinare un attimo il collegamento, perché c'è qualche problema di telefono. C'è ancora Mihajlovic, la sua analisi ai microfoni di Sky. La partita da vincere, abbiamo fatto due gol, era tutto un altro, sicuramente se avessimo vinto anche il giudizio di tutt'altro sarebbe più positivo, ma così, come ho detto, se tu comunque crei occasioni non li fai, poi quando li crei li fai, ti annullano, come fai a vincere? No, certo, poi ma siamo stati polli noi, perché abbiamo preso gol su rigore, tutto che è giusto, che è stato il rigore, espulsione, ma anche in 10 abbiamo giocato, abbiamo creato altre 3-4 occasioni, come se c'era un rigore netto che non ci hanno dato. Sì, no. Ale, no, due cose. Questo Mihajlovic che è arrabbiato, credo questa sia la sintesi. Poi scrive un amico 349-238-6666 su WhatsApp. Scrive: tutti gli allenatori degli ultimi anni nel Milan hanno fallito, ci deve essere un problema di rosa. Ma anche questo è vero, insomma, questo Milan evidentemente non è più quello di un tempo, però forse le aspettative messe sulle spalle di questa squadra erano anche superiori a quello che questo Milan poteva dare. Abbiamo recuperato Prandelli, sì, l'abbiamo recuperato. Eccomi. Cesare, cosa si aspetta da Napoli, Roma e Juve Fiorentina? Ma sono le quattro squadre con l'Inter che si giocheranno il titolo, quindi mi aspetto due partite spettacolari, ce l'auguriamo tutti. Quattro squadre che interpretano il calcio in maniera diversa, per il discorso che si faceva prima, che si ricerca sempre comunque anche un cambiamento. Chiaro che le squadre che hanno, diciamo, dato una continuità di gioco e di prestazione possono avere un leggero vantaggio, e quindi Napoli può avere un leggero vantaggio. La stessa Fiorentina, che ha cambiato poco ma ha mantenuto la concezione anche di certe situazioni di gioco e inserendo qualcosa di nuovo, quindi sono due partite da seguire attentamente e speriamo che lo spettacolo faccia padrone. Sono due semifinali playoff. Oggi c'era qualche giornale che, parlando di Juve Fiorentina, l'ha paragonata a una semifinale di playoff. Napoli-Roma è un dentro fuori, almeno per la Roma. Io credo, se la Roma dovesse perdere, probabilmente dovrebbe riconsiderare gli obiettivi di inizio stagione. No, secondo me no, abbiamo veramente tante partite, anche la Juve qualche settimana fa tutti la davano spacciata, era impossibile che potesse recuperare, invece lì che se dà una continuità a queste ultime 5 giornate può veramente tornare protagonista. Io penso che dopo queste partite dovremo soltanto fare delle riflessioni da un punto di vista del gioco, da un punto di vista della personalità e da un punto di vista del carattere delle squadre, e poi chi perde può ritornare sicuramente in gioco. Cioè non c'è una un modo di perdere, cioè se perdi in maniera passiva, ovvio che il giudizio può dire ok, abbiamo subito l'avversario, ma se perdi giocando un calcio piacevole, un calcio propositivo, un calcio coraggioso, io penso che non ci sia la parola fine. Sì, quello che è successo all'Inter a Napoli, perché il paradosso è che l'Inter poi è esplosa proprio nella sera di una sconfitta, proprio, quella di Napoli. Cosa ne pensa di come è andata ieri a Parigi, sorteggio girone degli europei per l'Italia, Svezia, Belgio, Repubblica d'Irlanda? Male, ma non malissimo. Ma insomma, i gironi sono sempre difficili da commentare, dipende da come arrivi, in che condizione, non soltanto la tua squadra, ma anche altre squadre. Sei in una fase finale del torneo importante europeo, quindi sono due partite molto difficili. Io sono convinto che sia un girone abbastanza difficile, quindi dico abbastanza difficile. C'è quella partita con la Svezia che è in mezzo, tra l'altro, Belgio e Repubblica d'Irlanda, che è un po' una finale anticipata. Esatto. Quindi io sono convinto che gli azzurri arriveranno preparatissimi da tanti punti di vista, però è un girone particolarmente difficile. Sì, c'è il rischio, insomma, di arrivarci a zero punti, il che significa scaricare molta pressione sulle spalle di una nazionale. La Svezia ci arriverà dopo aver giocato con l'Irlanda, ed è un'altra cosa. Fa bene Conte a non porre limiti a questa nazionale, quello che ha ribadito anche ieri con in mano questo sorteggio. Ma assolutamente sì, perché noi abbiamo fatto un grande errore agli europei non pensando di poter arrivare in finale, o meglio, pensavamo, ma l'avevamo organizzato a livello strutturale. Giusto che invece si pensi fin dall'inizio di arrivare a una finale. Intanto chiede uno stage a febbraio, almeno per vedere i giovani, tema che si ripropone tutti gli anni. Possono dare anche di più di uno stage, speriamo che ne possa avere di più, perché è importante per capire anche caratterialmente, non solo i giocatori, per conoscerli meglio, ma soprattutto per cominciare a creare un team di squadra. Ma sta cambiando qualcosa visto da fuori nel rapporto tra la nazionale e il resto del calcio italiano? La sensazione è no. Poco, secondo me, poco. La sensazione quasi è nulla. No. Finché non arrivano le partite ufficiali degli europei, non frega niente a nessuno. La nazionale, lo sapete detto, purtroppo è un grande nostro limite italiano. Un grande peccato, perché comunque avremmo delle risorse straordinarie, però devi per forza di cose ragionare in questo senso, e quindi non vedo niente di nuovo. Faccio un'ultima domanda, che è questa: oggi molti giornali ripropongono il tema, quanti sono già i sicuri tra i 23 oggi che mancano 6 mesi, un CT quanti ne ha sicuri a 6 mesi da una grande avventura? La metà, quasi no, tutti? Cioè com'è si costruisce quel gruppo? Ma diciamo che il gruppo importante, comunque tu hai una quindicina di giocatori che pensi che siano quelli indispensabili, poi chiaro gli infortuni ti possono condizionare. Io penso che un 30-35 giocatori devi per forza ancora pensare che possono essere tutti titolari, perché non puoi sapere cosa succederà, non puoi sapere cosa le condizioni che hanno i giocatori, e purtroppo ci sono tanti infortuni, giocano talmente tanto. Purtroppo anche a me è capitato prima dei mondiali. Il CT penso che debba ragionare sui 35 giocatori. Quindi c'è spazio ancora anche per Balotelli, che ieri ha twittato "non vedo l'ora". Conte gli ha detto "dipende di far cosa, se guardarli alla TV o venire". Oggi Balotelli l'ha cancellato, mister, il suo post di ieri. Mi sembra che Conte abbia... Mi sembra che abbia fatto bene a cancellarlo. In questo momento Balotelli dovrebbe, credo, concentrarsi, lavorare e basta. Ok, perfetto. Ecco. Ha già dato una risposta. Ha già risposto. Grazie Cesare Prandelli. Grazie a voi. Cesare. Grazie, buona serata, buona domenica, arrivederci. 800-24-00-24. Sì, Prandelli potrebbe essere un nome buono per il Milan. La risposta è sì, perché ci sono tanti allenatori forti fuori. La parabola di Donadoni al Bologna insegna che magari anche cambiare a metà non sempre è un problema e può portare qualche risultato. 800-24-00-24. Poi andiamo a Napoli, perché manca un quarto d'ora Napoli-Roma. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Ma bisogna capire, non vedo l'ora di vederla in televisione o di giocarla, no? Questo è. sta a lui, no? Quindi sta a lui, ma sta a tutti gli altri. Ma ripeto, fin qui ci hanno portato alcuni calciatori. Prima di farmi cambiare idea, c'è qualcuno che mi deve veramente far cambiare idea con grandi prestazioni in campo e fuori dal campo. Questo Conte ieri su Balotelli, quindi Balotelli sì o Balotelli no, lo chiedo anche a casa, 800 24 00 24. Per il momento Balotelli recupera, dovrebbe essere in campo in Coppa Italia. Io penso che se farò un grande europeo. Mario, buongiorno Mario. Possiamo vincere. Insomma, possono vincere loro. Loro? Sì, l'Italia. Ma chi è che dice questa cazzata? No, io gioco e basta, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Conte ha detto, dipende, vediamo, magari. Lo ha detto chi? Chi è che è? Conte, non è che puoi far finta di un. È il CT. Se tu chiedi a Capuano, tu chiedi in giro per il mondo e dici conosci Balotelli, loro ti rispondono sì, è un grande calciatore, un grande campione. Un calciatore. Se tu chiedi in giro per il mondo e dici conosci Antonio Conte, loro ti risponderanno chi cazzo è. No, ma a parte l'altro, se dici così, l'europeo lo guardi in TV. Mario, va bene, guarderò in TV il Belgio, la Svezia e l'Irlanda, non vedo l'ora. E quindi anche l'Italia, perché gioca che hai scritto ieri, sì. Perché gioca anche l'Italia. Dai, allora, lancia un messaggio distensivo ad Antonio Conte, così dimostri di essere attaccato alla nazionale, di essere maturo, di essere... Va bene. Fanculo, ma non no, vedo l'ora. Non è così. 800 24 00 24, il nostro Andro Mercù. Aldo da Torino, Aldo. Ciao a tutti, niente, volevo solo sapere, io prima ho sentito che si parlava della Roma e che vi chiedevate come mai non lottava per lo scudetto nonostante non ci fosse né il Milan né la Juve. Sì, la Juve soprattutto. Io però volevo dire che prima di queste due squadre deve chiedere il permesso a Napoli, Inter e Fiorentina. Tutto lì. Però se si torna indietro, Aldo, a quest'estate, a settembre, insomma prima che la Juve entrasse in quella spirale di risultati negativi, l'idea era che la Juve restasse comunque la squadra favorita. Certo, sì. Quindi è comprensibile che i tifosi della Roma ragionino sul fatto che mancando la Juve, persi tutti quei punti, si potessero aspettare di avere una classifica diversa. Poi è evidente che il rendimento del Napoli oggi è da squadra di riferimento, però che ci sia un po' di delusione a Roma io credo sia assolutamente fisiologico. Mi fate sentire le voci di ieri della vigilia di Sarri e Garcia su questa partita Napoli-Roma. Ripeto le formazioni: Napoli è quello solito: Reina, Isai, Albiol, Koulibaly e Goulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Calleoni, Higuain e Insigne. Mentre c'è qualche novità nella Roma, che gioca con il 4-3-3, quindi con il tridente Dzeko davanti con Falke e Salah, Gervinho parte dalla panchina, Szczęsny in porta, Florenzi, Manolas, Rudiger e Digne, poi a centrocampo Pjanic, De Rossi e Nainggolan. Ci sono le voci, prima saluto Xavier Iacobelli, ciao Xavier. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Mi sembra che Mihajlovic vada a giocarsela a Napoli, Insomma, mi pare che Mihajlovic in questo momento qui patisca una crisi di... No, stavo dicendo, scusa, dicevo Garcia, ti chiedo scusa, mi sembra vada a giocarsela col tridente. Oggi in tanti scrivevano che avrebbe giocato con una formazione leggermente più coperta. Ma sai, a questo punto questa è veramente la partita spartiacque per la Roma, alla luce delle pessime ultime esibizioni, a cominciare dalla batosta con il Barcellona, che è stata la palla di neve che ha a questo punto... la gioca. Certo, le remore riguardano le condizioni soprattutto di Gervinho. Ammettiamo come nell'ultima di campionato, dopo mezz'ora poco sta uscire, prima della partita con il Bate aveva eseguito gli esercizi di riscaldamento, ma poi giocò i turbe. Ma d'altra parte, come dicono i francesi, à la guerre comme à la guerre. Si gioca tutto, Garcia sa bene che in caso di sconfitta il suo futuro romanista sarà ancora più a rischio. Sì, è una specie di finale questa per la Roma, anche se poi oggettivamente a Napoli si può perdere. Certamente si può perdere contro una squadra che, non dimentichiamolo, prima della sconfitta di Bologna aveva inanellato 18 risultati utili consecutivi fra campionato e coppe, e dopo la sconfitta di Bologna si è sbarazzata in estrutezza dell'ultimo avversario lungo la strada che porta ai sedicesimi di finale di Europa League, peraltro brillantemente guadagnati con un turno d'anticipo e presentandosi con 22 gol segnati e 3 soltanto subiti, il miglior attacco delle competizioni europee. Quindi è chiaro che sulla carta questa sera parte a favorito il Napoli. Il compito della Roma appare improbo, anche se il calcio a volte ci abitua a sorprese, ma il dislivello dei valori è evidente. Sì, anche se Garcia ricorda il precedente della trasferta a Firenze, anche allora la Roma ci arrivava in mezzo a una crisi e a Firenze era nata una Roma diversa. Può essere un precedente a cui, diciamo, si può fare riferimento, anche perché questa mi pare sia una Roma con tanti paradossi, schizofrenica, ha anche grandi potenzialità oltre che dei limiti. Certo, ha grandissime potenzialità e la sensazione che si ricava esaminandola nelle ultime partite è che ci sia una crisi di fiducia che attanagli la squadra e lo stesso allenatore, perché prima di Barcellona parla di una squadra che andrà sicuramente a fare bella figura sul campo dei campioni d'Europa e viene travolta. Poi accenna ai guerrieri che dovrebbero battere l'Atalanta e l'Atalanta li sconfigge. Poi parla degli 11 lupi con il Bate Borisov che vengono quasi sbranati dai bielorussi. E se non ci fosse stato il Barcellona, pur con 3 titolari in campo, a Leverkusen, capace di fare risultato con i tedeschi comunque, quindi di spianare la strada alla Roma, la Roma sarebbe stata eliminata, rischiando di perdere con il Bate. Dopodiché le polemiche squassanti l'ambiente circa l'atteggiamento dei tifosi, che secondo me hanno il sacrosanto diritto di fischiare in maniera civile e soprattutto anche se c'è qualcosa di superiore alla questione tecnica dietro la contestazione della Roma, e su questo bisogna stare molto attenti, direttore, perché è argomento scivoloso. Però nella fattispecie noi non stiamo parlando, mi riferisco ai fischi. Tu dici i 6.000 che erano lì col Bate Borisov avevano diritto di fischiare per quello che avevano visto, quelli fuori è un altro discorso. Per la segmentazione delle curve, 26.000 presenti, anche perché si parla di un altro contesto. I 26.000 presenti, secondo me, hanno esercitato il diritto di critica dando una dimostrazione di cultura sportiva, perché hanno fischiato la loro squadra nonostante si fosse qualificata agli ottavi di finale di Champions League dopo 5 anni, ma l'hanno fischiata perché aveva giocato malissimo. E se no quando possono fischiare? I tifosi che pagano il biglietto peraltro non pagano prezzi che siano assolutamente leggeri, anzi. Il problema è questo. Poi però se l'allenatore sostiene che la squadra comunque abbia giocato e il presidente afferma che i tifosi non debbano fischiare la squadra quando gioca così male, è chiaro che si entri in un circolo molto pericoloso, perché a Roma si sta assistendo sull'una peraltro sull'altra sponda del tifo alla desertificazione dell'Olimpico, e questo non era mai accaduto. E questo però entra anche nell'altro discorso, sia per Roma e Lazio, dove l'aspetto tecnico credo sia l'ultimo degli anelli di questa catena che porta a questa contestazione. Abbiamo un minuto, abbiamo sentito prima un Mihajlovic arrabbiato come mai con l'arbitro. Noi l'abbiamo detto in apertura, Valeri oggi sicuramente ha penalizzato il Milan, perché il rigore finale su Bonaventura c'era, perché almeno un fuorigioco decisivo, la chiamata è stata sbagliata. Però la sensazione è che questo Milan non abbia un gioco e buona parte della responsabilità sia anche di Mihajlovic. Sì, fino ad un certo punto di Mihajlovic. È vero che accettando di guidare questa squadra il 1 luglio scorso, trattavasi del quarto allenatore cambiato a Milan in un anno e mezzo, il tecnico serbo accettava anche l'organico che la società gli avrebbe messo a disposizione, ma questa squadra paga ormai da 4 anni un pedaggio pesantissimo all'incapacità di trovare un sostituto di Pirlo, che era stato scaricato convinti a Milan che fosse alla fine della sua carriera. Poi abbiamo visto di cosa è stato capace Pirlo nel quadriennio bianconero. Questa squadra, come dicevi tu, manca di qualità, non c'è niente da fare. Adesso l'arbitro ha inciso e come, d'altra parte se Messina si ostina ad andare in giro un arbitro che è manifestamente inadeguato, questi sono un altro tipo di problemi, ma la verità è che il Milan manca di personalità e manca di un costruttore di gioco, un giocatore da Milan, un fuoriclasse da Milan, un fuoriclasse come Pirlo, purtroppo di Pirlo ce n'è soltanto uno, ma almeno un succedaneo, qualcuno che possa prendere in mano le redini del gioco e dettare i tempi della manovra, il Milan lo deve trovare. È su Witzel per gennaio, vedremo se da qui a gennaio lo prenderà, anche perché c'è la questione di Mr. B che, se non vado errato, nel luglio scorso doveva versare 480 milioni di euro nelle casse del 48% della società, siamo arrivati al 13 di dicembre. Sì, e i soldi ancora non sono arrivati, anche se mi risulta domani qualcosa succederà. 800 24 00 24, grazie a Xavier Iacobelli. Grazie direttore, torniamo subito dopo. C'è Pierluigi Pardo, prenotatevi, vivremo insieme il primo tempo di Napoli-Roma, continueremo il processo al Milan. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24, ci becchiamo tra poco, Tutti convocati. Convocati. Io non parlo mai degli arbitri, però non sono scemo, perciò ogni partita, tante partite ci hanno danneggiato, perché questo non va bene così, non va bene così, perché non accetto, e lo stesso arbitro è stato anche quello di Firenze, che ci ha buttato fuori Rodrigo Elli su due falli, che subito due ammonizioni, un rigore che c'era e non ce l'ha dato, anche là settimana scorsa c'era un altro, io non l'ha dato, non si può andare così. Io, va bene star zitti e parlare e non dire niente sugli arbitri, però non posso più accettare queste cose qua. Questo Mihajlovic dopo il pareggio con il Verona, 800 24 00 24. Ciao Pier. Come va? Bene, Mihajlovic un po' meno. Sì, un po' meno, perché anch'io ho iniziato il sondaggio, vi stavo ascoltando prima e ho... Sì, cosa hai votato? No, non ho votato, ho lasciato la parola. Eravamo 1000-1200 votanti, era l'ultima volta che ho visto, era 65% a favore di Mihajlovic, quindi sì, per il non esonero, che secondo me è un controsenso. Io adesso ripeto, noi l'abbiamo detto all'inizio, oggi ha inciso anche l'arbitro oggettivamente, certo. Perché oggi in un paio di decisioni fondamentali Valeri e i suoi assistenti hanno sbagliato, e hanno sbagliato penalizzando il Milan, però se questo Milan ha gli stessi punti di quello dell'anno scorso, molte meno certezze, perché l'anno scorso di questi tempi quello di Inzaghi riceveva la bacchetta magica dai giornalisti di Milanello, credo non faranno con Mihajlovic. A gennaio, dopo la vittoria contro Real Madrid in amichevole, comincia il periodo peggiore del Milan di Inzaghi, quindi io non lo so, non penso che Mihajlovic sia l'unico colpevole. Certamente quest'anno il Milan ha speso, avrà speso male, avrà speso troppo, avrà speso senza risolvere i problemi, però ha speso, cioè io non mi sento di poter dire che sia stata una brutta campagna acquisti, una campagna acquisti in tono minore. Il progetto c'è stato e adesso i risultati ancora non si vedono, quindi insomma, sì, segno di debolezza e difficoltà. Non sono per l'esonero oggi, però che Mihajlovic stia deludendo, le delusione di deludendo, come quella famosa imitazione, mi sembra abbastanza evidente, sì. E credo che ci si aspettasse di più, ma proprio perché uno stima Mihajlovic, cioè perché ci si aspettava che potesse nella prima stagione alla guida di una grande squadra, almeno teoricamente una grande squadra, fare molto meglio. Intanto, siccome non ci facciamo mancare niente, vi racconto che al settimo minuto di Napoli-Roma è stato chiamato un fuorigioco a Calleon, che non c'era, e Calleon ha messo in mezzo il pallone con fallo di mano di Digne, poi tutto fermo perché c'era la sbandierata prima di un fuorigioco che non c'era, però insomma avremo da parlarne, così come Mihajlovic ha parlato oggi molto di arbitri. Credo Pier sia un segnale da un certo punto di vista di una debolezza assoluta. Ti leggo alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Se ti attacchi agli arbitri per giustificare la scarsità dei risultati non vai da nessuna parte. Questo Mauro da Genola, provincia di Cuneo, tifoso del Milan, su WhatsApp 349 238 6666. Poi ancora, adesso si mette a piangere lamentandosi degli arbitri, deve fare solo una cosa, dimettersi. Poi un altro amico: Berlusconi cambi l'allenatore perché dopo 4 mesi non è riuscito a dare niente a questa squadra. Poi un altro che chiede che cosa ha vinto Mihajlovic da allenatore, lo definisce mediocre. Io non credo sia mediocre, però non sono particolarmente, cioè credo negli ultimi anni il Milan abbia fatto degli errori evidenti, però quest'anno i soldi li ha spesi, ribadisco, li ha spesi e secondo me non li ha neanche spesi male, perché poi alcuni dei giocatori sui quali il Milan sta costruendo le poche certezze che ha in questo momento sono giocatori comunque di prospettiva, arrivati recentemente, insomma, da Bonaventura preso l'anno scorso, allo stesso Bacca, che mi sembra un giocatore comunque di livello importante. Quindi insomma è chiaro che qualcosa non... è ovvio che adesso sta un po' sentirete il momento in cui si inserisce da un se si paga introdurre il denaro, sono la tangenziale di Torino, sto arrivando allo Juventus Stadium, no? E quindi è chiaro che uno della vita si aspetta qualcosa di più, si può aspettare qualcosa di più, è tanto vero, è abbastanza evidente che poi alla fine l'allenatore diventa la somma di tutto, per cui se le cose non vanno male è chiaro che non è solo colpa dell'allenatore, ma l'allenatore diventa inevitabilmente la sintesi dell'andamento della squadra, quindi se ti porta dei punti in più rispetto a quello che ti aspettavi ti becca i meriti, se ti porta dei punti in meno ti becca i demeriti, poi sì. È ovvio che non è solo colpa sua, ci mancherebbe altro. Sì, intanto a Napoli vanno avanti 0-0, decimo minuto. Facciamo la sintesi vocale di quello che è successo invece ieri a Parigi, di questo sorteggio di cui parlavamo prima con Cesare Prandelli, che diceva girone difficile, secondo me non c'è andata malissimo. Italy in group E with Belgium, Republic of Ireland and Sweden. Cazzo guardi. La competizione comunque è elevata e pensare di trovare un girone facile sotto tutti gli aspetti era difficile. Un gruppo sicuramente è duro, non sarà una passeggiata, però penso ecco che il Belgio sia sulla carta superiore, no? Alle altre, però vedo grande equilibrio. Non dobbiamo perdere la prima partita, perché se si perde la prima nei tornei è sempre un problema, la seconda diventa subito un dramma. Zlatan Ibrahimovic non partiamo con lui perché partiamo con il Belgio, quindi sarà la seconda partita, però fa sempre piacere incontrare un grande campione, un grandissimo calciatore. Se voglio fare male a qualcuno lo faccio, non è un problema. Sì, fa sempre piacere incontrare un grande campione, ma era meglio beccare l'Ungheria, Pierre, nella terza urna. 800 24 00 24, intanto c'è Digne col turbante, a San Paolo ha preso un colpo, 0-0, 12 minuti. Ha detto prima Prandelli difficile, secondo me la cosa complicata, Pier, di questo girone è che noi a quella seconda partita, quella che sarà decisiva, il nostro spartiacque, arriviamo dopo il Belgio, mentre sì, la Svezia ci arriva adesso, dopo l'Irlanda. Sì, sicuramente, però la Svezia evoca anche pensieri di Biscotti 2004, ma lasciamo perdere il colpo di tacco di Ibrahimovic. Io penso che dobbiamo perdere per forza col Belgio. Io penso che noi da non testa di serie non siamo stati particolarmente sfigati. È stato un girone, sono d'accordo con te, è stato un girone secondo me medio, non un girone facilissimo ma neanche un girone particolarmente difficile. Io francamente fra il Belgio e la Germania preferisco il Belgio da affrontare, perché il Belgio è una grande squadra, sicuramente di prospettiva forse anche superiore alle altre, numero uno del ranking, però ancora deve dimostrare tutto. Il Belgio è una squadra di grandissimi talenti che noi abbiamo visto e che vediamo continuamente crescere e ci piacciono, ma a livello internazionale nella prima grande competizione ha fatto benino al mondiale, ma non è che abbia fatto cose grandiose. Quindi rispetto a squadre più abituate a giocare insieme e più abituate alle grandi competizioni, io preferisco prendermi il Belgio. Sì, Germania e Spagna sarebbero state oggettivamente peggio. La Germania sicuramente, la Spagna potrebbe essere in calo, però ha un'abitudine delle grandi manifestazioni che il Belgio secondo me potrebbe anche non avere. Quindi io penso, è chiaro che il Belgio è più forte di noi in questo momento, non ci sono dubbi, però è giocabile, no? Insomma, poi mi fido molto di Conte. Ci abbiamo anche giocato a Bruxelles, in quella serata surreale, purtroppo, nella quale a un certo punto ci siamo messi a guardare tutto meno che la partita, però sicuramente stiamo parlando di una squadra molto molto forte, penso, più secondo me di prospettiva a livello di ovviamente osservatori, procuratori, dirigenti, perché è piena di talento da De Bruyne ad Hazard, allo stesso Nainggolan che conosciamo benissimo. Sì, però non hanno ancora dimostrato di essere una squadra che arriva fino in fondo in una grande manifestazione. Pier, c'è il traffico, ti devo fermare. 800 24 00 24 00, tra Napoli e Roma, siamo al quarto d'ora e devo dire non male la Roma in questo primo quarto d'ora. C'è un diluvio di commenti sulla crisi Milan e Mihajlovic, poi li leggiamo, però adesso c'è il traffico. Abbiamo bisogno di fare un buon torneo, come ho detto, di rendere quanto più orgogliosi i nostri tifosi, i tifosi italiani. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Tutti convocati. Ora 0-0 all'Olimpico, sedicesimo minuto, Napoli che adesso sta provando a mettere fuori il naso, Rudiger che chiude Higuain, ci sarà un calcio d'angolo per il Napoli, però non male la Roma, non male la Roma in questo primo quarto d'ora. 800 24 00 24, alcuni dei messaggi che stanno arrivando sulla questione Milan Mihajlovic: non è colpa di nessuno, la società e la squadra oggi valgono questo. Io non credo, Pier, che valgano un settimo ottavo posto, perché questa è la dimensione oggi del Milan. No, soprattutto il Milan dà la sensazione di fallire tutte le volte che ha la possibilità di tirare fuori il naso, di salire un po', dopo la vittoria con la Samp, dopo la vittoria contro la Lazio, c'era stato il pareggio contro la Taranta, dopo la vittoria con la Samp c'era questo calendario, mi ricordo, sì, quello che doveva fare i 12 punti, no, in 4 partite, c'era questo calendario, certo, con queste 4 partite apparentemente facili. Le prime due sono stati due pareggi contro Carpi e Verona, che sono le ultime due della classifica. Io credo che qualche domanda se la debba fare, ma credo che lo stesso Mihajlovic, che è persona intelligente, starà facendo le domande. Lo stesso Mihajlovic non sarà contento del suo lavoro. Poi si può discutere sul fatto che questa squadra è, come diceva Prandelli prima, ancora all'inizio del percorso, che ha una serie di giocatori che devono migliorare, che devono crescere. È ovvio che è lunga la strada. It's a long way to Tipperary, come in quella canzone, però è vero che il Milan arriva da una serie di anni che sono stati già di depressione, per cui comincia a essere una misura un po' colma per una società abituata agli ultimi 26 anni a vincere tantissimo, e quindi insomma adesso io capisco che la tifoseria sia piuttosto pesata. Sì, saluto Moreno Torricelli, ciao Moreno. Buon pomeriggio a tutti. Che idea ti sei fatto della crisi del Milan? Poi andiamo anche su, ovviamente, su Juventus Fiorentina. Però tanti scrivono: più che Mihajlovic sarebbe da esonerare Berlusconi, oppure la colpa è della dirigenza incapace di acquistare giocatori di qualità, il centrocampo imbarazzante, ancora se spendi 90 milioni per stare peggio di prima la colpa non può che essere di Galliani, perché poi i tifosi ce l'hanno con Galliani più che con Mihajlovic, Moreno, anche questo è un paradosso. Ma è un paradosso, sì. D'altronde, quando per diversi anni non si riesce a trovare una giusta squadra che ti porta a vedere una squadra gloriosa come il Milan a crescere anno dopo anno, i tifosi contestano, dal presidente fino al magazziniere, quello è senza ombra di dubbio. Dispiace perché insomma è una squadra che ha sempre portato in Europa, ha sempre portato alto il nome dell'Italia, e dispiace vedere che non si riesce a trovare la giusta squadra. Sì, c'è chi ricorda che questo Milan è in condizioni molto simili a quelli della Juventus il giorno che arrivò Conte. Secondo me differenze ce ne sono, Pier Moreno, e anche tante. Pier. Sì, la Juve lo fida. Prego, Moreno, vai. Io credo che alla base ci siano i giocatori, insomma, credo che almeno dal di fuori credo che mancano un po' di personalità, come dicevate appunto voi, c'erano queste due partite dove si pensava che il Milan potesse fare 6 punti per stare al passo con le grandi del campionato, invece sono arrivati 2 pareggi, e questo credo che la differenza la faccia il giocatore, trovare le motivazioni in quelle partite dove le motivazioni non ti vengono naturali. Sì, che è stato forse anche un po' il limite della Juventus in questo inizio di stagione, così per proiettarci anche su quello che accadrà questa sera alle 20:45 allo Stadium. è sempre Juventus-Fiorentina e quindi sarà una partita molto complicata. Paolo Sousa, Orlando, parte questo lungo lancio. Del Piero, esterno straordinario, e la Juventus è in vantaggio. Segna un gol memorabile. Gol memorabile. Uno dei grandi punti di forza della Juve è la sua propria storia e la sua propria cultura. La tranquillità e la serenità che danno anche nelle difficoltà di una stagione che non ha cominciato bene e che hanno trovato il livello che appartiene a loro. Si vede la capacità su quella società. Tanto il cross per Battistuta, rete! Batigol! Sblocca il risultato con il 17° gol stagionale. Batigol colpisce ancora ed è l'1-0. Fiorentina ha dato continuità ai risultati, ha fatto dei risultati in casa, ha fatto dei risultati fuori casa. È una squadra che aggredisce molto, è una squadra che ha grande tecnica, sono dei buoni giocatori, gioca un buon calcio, non ha le pressioni di dover vincere per forza il campionato, quindi sarà una partita di alto livello. Siamo andati a ripescare quel gol là di Battistuta, anno 98-99. Moreno, credo tu fossi in campo, giusto? Sì, era la mia prima partita contro la Juve da ex, e insomma aver vinto quella partita era una bella rivincita per me. Perché quello è un gol storico, Pier, è l'ultima volta che la Fiorentina ha affrontato la Juventus stando davanti in classifica, ovviamente non nelle primissime giornate di campionato. Era una grande Fiorentina quella, è una grande Fiorentina questa. Oggi un giornale titola che questo Juve Fiorentina, Pierre, è una semifinale playoff. Ha lo stesso valore? Beh, ha sicuramente un grande valore, ha un grande valore per tutte e due, perché la Fiorentina non deve buttare via la straordinaria partenza di stagione che ha fatto fino a questo momento, perché insomma fino a prova contraria in questo momento è la prima alternativa all'Inter, e perché la Juve mi sembra nelle ultime partite abbia dimostrato di avere un passo completamente diverso rispetto a prima, e il campionato è lungo, come si dice in questi casi, a tutti gli scontri diretti in casa nel giro di ritorno, a parte appunto quello con la Fiorentina, ma gioca in casa oggi, quindi insomma è tutto un insieme di elementi che rendono questa partita assolutamente importante. Il ricordo del gol di Battistuta, tra l'altro, era 13 dicembre 1998 con la Fiorentina che sta lì a più 10 dalla Juve, ovviamente è un ricordo che i tifosi della Fiorentina si portano dentro, anche perché quello è stato l'ultimo anno che la Fiorentina è stata realmente competitiva per il titolo. Già il 4-2 dell'epoca di Conte è completamente un'altra storia, insomma. Sì, è ancora la più forte la Juve adesso che ha ritrovato un equilibrio, Moreno? Ma io credo di sì, appunto per la storia, per i calciatori abituati a giocare per vincere il campionato, credo che sotto questo profilo abbiano qualcosa in più. Poi la Fiorentina sta facendo qualcosa di straordinario, gioca bene, è una squadra che riesce a pressare molto bene, non far giocare gli avversari, sta facendo molto bene, credo che sia che sarà una bella partita da vedere. Sì, Paolo Sousa sembra un predestinato, Moreno. Oggi in tanti hanno scritto anche ricordando come quella Juventus, quella di fine anni 90, campione d'Europa, fosse in realtà un insieme di talenti e di cervelli che poi in tanti hanno fatto gli allenatori. C'è Conte, c'è Deschamps, c'è Paolo Sousa, c'è chi ci ha provato anche con meno fortuna come Vialli, Ferrara. Paolo Sousa ha le stimmate del predestinato. Sì, guarda, Paolo Sousa è una persona estremamente intelligente, una estremamente preparata. Io ho avuto modo di parlarci assieme questo pomeriggio, così sono stato a trovarlo in ritiro a Torino e ci ho parlato un attimino. Insomma, è un ragazzo che non lascia niente al caso, che si è preparato molto bene negli anni dove non ha fatto l'allenatore, andava a cercare di capire il metodo di lavoro di mezza Europa, e insomma i risultati si vedono. È vero quello che ha detto Lippi, che già da giocatore, soprattutto negli ultimi anni, ragionava su un futuro da allenatore. sì, diciamo che per caratteristiche tecniche in campo era un giocatore che dettava i tempi del gioco, dettava i ritmi del pressing, era uno che prendeva la squadra per mano e cercava di aiutare tutti i compagni in qualsiasi situazione. È sempre stato un giocatore estremamente intelligente tatticamente, per cui non può essere altrimenti da allenatore. Pierre, intanto 25esimo minuto, Napoli-Roma, primi squilli di Napoli con un sinistro di Insigne di poco sul fondo. Pierre, sì. su questa sfida tra Paolo Sosa ed Allegri, c'è anche chi scherzando dice Paolo Sosa ha un futuro alla Juve già disegnato. Ma Allegri? No, non anzi Allegri ieri ha detto volete già mandarmi via. Perché per parcheggiare la macchina vuole no Paolo Sosa insomma, diciamo che ha un passato bianconero, ha una qualità in questo momento enorme, ha cambiato. Io guardavo l'altro giorno i numeri della Fiorentina rispetto all'anno scorso, quello che è impressionante è quanto giochi più verticale rispetto all'anno fa. Lo scorso anno la Fiorentina di Montella aveva un possesso palla nella metà campo avversaria molto molto importante, molto significativo, però poi faceva fatica a essere così incisiva sotto porta. Poi in realtà c'è pure un signore che si chiama Kalinic, senza il quale probabilmente parleremo di una squadra diversa. Sì, sposta abbastanza Kalinic in questo momento. Quello che è sempre mancato nella Fiorentina di Montella lo sappiamo, no? Era il finalizzatore, lo stoccatore, l'uomo capace di, vediamo se riusciamo a parcheggiare la macchina, è una prima scena vicino al rosso col muso in qua, benissimo, perfetto, ho capito. E stavo dicendo quindi che questo fa molta differenza, insomma il tema è quasi filosofico sull'importanza del centravanti del calcio moderno. Possiamo parlare di falso nove quanto vi pare, ma poi quando hai giocatori come poteva essere alla fine degli anni 90 Batistuta e come è in questo inizio di stagione Kalinic oppure Higuain, le cose cambiano. Anche per tornare al discorso fra Napoli e Roma, no? La differenza a questo momento della stagione l'hanno fatta anche i due attaccanti, questo è evidente, è oggettivo. Poi è ovvio che se Cadi si gioca così bene il merito è anche di Sosa, quindi non è soltanto una fortuna che ha ricevuto in dono, ma lui ci ha messo sicuramente del suo. Però secondo me fa tanta differenza. Chi vince Moreno stasera? Ma guarda, non lo so, per me diventa anche difficile fare un pronostico. Io mi auguro veramente che sia un'ottima partita, che vinca il migliore, insomma, che non sempre capita questo nel calcio, però mi auguro questo. Grazie Moreno. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Ciao. Moreno Torricelli, intanto 28 minuti, Napoli-Roma 0-0, ha avuto un'altra occasione la Roma con Manolas sugli sviluppi di un calcio d'angolo, girate destro, palla di poco sopra la traversa. Mi sembra, Pier, non il migliore Higuain fin qui della stagione, un po', mi sembra, indolente. Quello che mi stai raccontando, poi ti dirà come finirà, una partita in linea con quello che ieri in qualche modo diceva Garcia in conferenza stampa, cioè insomma, certe quote dei bookmaker forse potevano essere un po' esagerate. Poi adesso il Napoli, io rimango convinto che sia favorito in questi 90 minuti, non lo sto vedendo la partita, però forse ci si è fatti prendere un po' dagli umori della piazza, dai fischi di Roma Abate, perché insomma, forse c'è più partita di quello che alcuni potevano immaginare. Anche dalla prestazione, no? Della Roma in Coppa, sì, che al di là di ogni valutazione sulla contestazione era stata al di sotto. Una partita strana, perché è stata una partita poi alla fine bloccata, secondo me, da un risultato che a un certo punto andava bene, e che andava bene, che ti portava da un lato ad attaccare, dall'altro a non farlo. Cioè, secondo me è stata, ho fatto la telecronaca di quella partita, era una situazione oggettivamente particolare. Poi la Roma ci ha messo del suo, nel senso che una squadra in salute probabilmente gioca col Bate, vince 3-0 e non se ne parla più. Però a un certo punto il tipo di clima era anche dovuto a questa situazione particolare. La Roma era sospesa fra la paura di concedere palle gol, di scoprirsi, sicuramente le gambe che non vanno come dovrebbero andare, e il risultato che di fondo poteva andare bene e poi di fatto è andato bene, sia pure fra mille fischi. Sì, poi c'è un amico che scrive: la Roma non riesce più a ripartire, il Napoli pressa in attacco, sarà però insomma anche il conto delle poche occasioni che si sono viste sin qui, mi sembra premi la Roma. 800 24 00 24, torniamo subito. Vorrei chiederti come vedresti Paolo Sousa sulla panchina di una grande squadra, magari anche come tuo successore, visto che finora si è fermato su un livello, diciamo, medio alto, non altissimo. Mi vuoi mandare via dopo 2 anni? Tutti convocati. convocati. Ho detto che se potessero fare 0 punti tutte e 4 è impossibile. Lo so, però diciamo sbilanciando. No, ma no, veramente no. Cosa cambia? Non credo che cambi molto, insomma, un risultato o l'altro, perché poi credo che quelle squadre lì saranno quelle che lotteranno per vincere il campionato. Parlava Mancini ieri sera di Napoli, Roma, Juventus, Fiorentina. Qualcosa cambia, Pierre, se vince il Napoli, se pareggiano, se sì. Insomma, cosa succede tra adesso e questa sera? Fossi Mancini non tiferei, cioè tiferei per la non vittoria del Napoli e per la non vittoria della Juventus. Perché Napoli secondo me sarebbe la situazione ideale per l'Inter, secondo me Napoli rimane la grande favorita, anche se poi se vuoi parliamo forse l'ha già fatto dell'Inter, no, ne parliamo adesso. Sta recuperando tanto. Ieri io ho fatto un paio di tweet, ho detto era schifo, però questa squadra fa schifo, continua a far sì che tutte le avversarie giochino male, ovviamente, che gli avversari facciano sempre gli errori clamorosi, e secondo me c'è una grande crescita. E la Juve, perché secondo me la Juve in prospettiva, se dovesse tornare in zona per l'abitudine che ha a vincere, può farle là. Sì, e poi l'Inter a specchio rispetto alla Juve ha il girone di ritorno con tutti gli scontri diretti fuori casa, e questo può avere un peso, anche se sinceramente nelle ultime settimane dopo la sconfitta di Napoli viene difficile anche dire che l'Inter giochi male come si faceva all'inizio: gioca male, non prende gol, vince 1-0 stentata. Mi sembra che l'identità adesso sia chiara, intanto azione della Roma ancora 0-0 35esimo, prima abbiamo visto Insigne in un contropiede con l'ultimo passaggio sbagliato. Pier, difficile dire che l'Inter continui a giocare male. No, tu sai, io l'Inter l'ho considerata in tutta la prima parte della stagione, in tutta la nostra analisi, in tutte le nostre valutazioni, abbastanza un mistero, e quindi sicuramente non sono stato, diciamo, un fan dell'Inter e della sua maniera di giocare, però mi sembra, avevo l'idea già prima di ieri, mi sembra che nelle ultime uscite questa squadra stia cambiando parecchio in meglio, cioè gli 1-0, se facevo l'esempio fino a ieri, l'1-0 col Genoa era molto diverso rispetto agli 1-0 del periodo precedente, di quello contro la Roma, di quello contro il Torino, cioè era un 1-0 largo, e comincia a vincere più spesso partite con margini diversi. Insomma, a me sembra un'altra cosa. Ieri è vero che l'Udinese ha costruito delle buone occasioni all'inizio e che poi 3 gol se ne fatti da sola, nessuno discute, però voglio dire, se tu dopo 16 giornate hai 36 punti, sì, qualcosa vorrà dire. Sai che è un grande fan del gioco dell'Inter, intanto saluto Luca Telese che sta soffrendo. Ciao. Per Napoli-Roma, no, ciao. Però ve lo voglio far sentire perché mi ha fatto impazzire Colantuono ieri. Ho capito, ma io, ma non c'ha schiacciato né la Fiorentina né l'Inter. L'avete visto? No, io rispondevo a lui perché lui mi dice e dobbiamo cambiare modo di giocare. Ma cioè, a volte queste cose mi mandano fuori di testa. Poi se giochi di dietro, se c'è una squadra, ma una squadra impaurita, tutti dietro, non mi sta bene niente. Abbiamo giocato a calcio, abbiamo tirato in porta, abbiamo tirato il doppio dell'Inter in porta, abbiamo fatto più possesso palla. Cioè, non lo so. Poi abbiamo perso 4-0, di che parliamo? Non possiamo parlare di nulla, ce l'ho sempre torto. Mi sembra che la fine sia stata la sintesi, però ne abbiamo sentiti gli allenatori che hanno giocato contro l'Inter parlare così, Pier Luca Telese. Sì. No! No! Il no era per un contropiede del Napoli, palla sbagliata su quando vedo il pepita, Terese ha il ritorno segnale un paio di secondi di vantaggio sul mio, perché non c'è a dire no, che qua stava ancora a metà campo. Comunque non è successo niente. Comunque quindi, con l'Antonio un mito, ma sì. Di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Giochi dietro, sei chiuso. Oh, abbiamo fatto la toccatura e poi tanto no, si è fatto male l'assistente. Cariolato. Si è fatto male l'assistente, quindi partita ferma, Napoli-Roma 0-0, no, 40esimo. Ha ragione Colantuono, sì. Ha ragione su tutto, però ha ragione anche sulla parte finale in cui dice abbiamo perso 4-0, anzi abbiamo perso 4-0 che stamattina, perché la partita di ieri è stata esattamente questo, cioè l'Udinese ha provato a giocarla, fra l'altro con delle squalifiche pesanti dal punto di vista difensivo, che non vanno dimenticate, ha provato a giocarsela, ha fatto i primi 20 minuti buoni, Poi però ha perso 4-0 e non è che ha perso 4-0 per degli episodi, o perlomeno non per degli episodi che non dipendessero dall'Udinese. Ha perso 4-0 perché ha fatto tre gol da solo. Sì, ha fatto degli errori che non si però possono concedere a nessuno. Sta bene. È molto in salute, è molto solida. Io l'avevo fatta contro il Genoa, aveva vinto 1-0, ma era un 1-0 largo, ribadisco. È una squadra che sicuramente non rappresenta l'estetica pura del calcio, ma che da qualche settimana mi sembra che giochi sempre meglio. E il giorno in cui ce ne siamo accorti è stato paradossalmente il giorno della sconfitta, della seconda sconfitta stagionale contro il Napoli, quando però si è vista una squadra che contro ogni pronostico, invece di sfasciarsi, ha ricominciato a lottare. Quindi io non le regalo niente, non le tolgo niente. Ribadisco che il primo posto è meritato, lo dice il campo. Ci sono squadre più spettacolari, mi diverte nettamente di più come gioca il Napoli, come gioca la Fiorentina, ma anche come gioca la Roma in certe circostanze, quando come giocava, dovrei dire, la Roma. Sì, anche se oggi non male, male. Adesso ne parliamo, tra l'altro stiamo assistendo a un evento insolito, cioè la sostituzione del Guardalino. Caiolato si è fatto male, problemi muscolari, entra, vediamo chi entra. Come ti sembra la Roma, Luca? Tonica, forte, la mia interpretazione è psicocalcistica. Una volta tolto il problema di sto giocando e ogni tocco che faccio decide il destino di 45 milioni di euro, cioè la qualificazione, questa Roma respira. Poi può accadere di tutto. Grande partita, grandi giocate, però ci siamo, è rinata. Sì, ho avuto anch'io la stessa sensazione, mi sembra anche un Napoli leggermente sottotono questa sera, e l'immagine è Higuain che quando se la prende con i compagni per i passaggi sbagliati di solito è il termometro che non tutto sta filando liscio, e questo è accaduto in questo primo tempo, quindi aveva ragione Garcia in fondo ieri a dire ci date morti troppo in fretta. Assolutamente sì. Ha sempre ragione Garcia. Sempre Rudi, è un po' come Voltaire nel calcio italiano, cioè un grande intellettuale prestato a un gioco di massa, e però si gioca un ritmo indiavolato, ci sono molti errori da una parte e dall'altra, anche quelle di partenze, cose minime, stupisce, no? Due squadre così, degli appoggi totalmente fuori senso, dei controlli errati. No? Non hai anche tu, Pierre, un po' la sensazione che forse il Napoli stia entrando non nel momento migliore della sua stagione? C'era già visto qualcosa contro l'Inter, poi c'è stata la caduta di Bologna. Ma guarda, poi questo primo tempo a spaccare il capello, si era visto qualcosa già contro l'Udinese, che era stata in quel periodo lì di tutte le partite del Napoli quella un pochino meno brillante, risolta solo nel secondo tempo e con una traversa sia pure sugli sviluppi di calcio piazzato colpita dall'Udinese, ed era stato rispetto ad altre prestazioni assolutamente mostruose come quella contro il Milan a San Siro, tanto per farne una, o quelle contro la Fiorentina, contro la Juve, era stato qualcosa, un passo indietro. Per adesso è presto, è il 42esimo, io questa partita tra l'altro la sto vedendo da 7 minuti, sì, quindi è presto, però sicuramente quel tipo di copione di una partita a senso unico, ho visto dei bookmakers dare 1,63 di quota, insomma 63 è la partita mediamente, una quota da squadra molto forte in casa contro una squadra medio piccola, ecco, insomma mi sembra invece che sia sicuramente più partita. Sì, però è cronaca, che insomma è quasi finito il primo tempo, non ricordiamo una vera occasione del Napoli. Prima tra l'altro abbiamo visto una piccola provocazione di Rudiger e Higuain, abbastanza nervoso Higuain ha risposto. Vi chiedo un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, così poi torniamo che c'è il finale del primo tempo. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta convocati. Barbirati, è entrato al posto di Cariolato, assistente infortunato, intanto ci prova al Napoli, libera la difesa della Roma che adesso è un po' chiusa dietro, un po' in affanno, Napoli che sta producendo lo sforzo in questa parte finale del primo tempo, 0-0, quando siamo a 30 secondi dal 45esimo, anche se ci sarà un congruo recupero proprio per l'infortunio muscolare dell'assistente del signor Rizzoli. Siamo con Pierluigi Pardo, con Luca Telese, ci continuano a scrivere da casa che Napoli sta creando occasioni, per carità, mi pare che questo sia però un Napoli che, rispetto a quello a cui ci siamo abituati in questi ultimi due mesi, stia facendo un po' di fatica. C'è anche Maurizio De Giovanni, così sentiamo anche la voce dei napoletani. Maurizio, buonasera. No, la voce, più che la voce, le urla, la sofferenza. Non benissimo, questo Napoli. Vivamente, le telefonate in diretta che sono un'istigazione al reato, praticamente. Sì, come sta giocando il Napoli? Molto vicini a dire qualcosa che pubblicamente non è ammesso che si dica. Comunque, buonasera a tutti. Buonasera, come sta giocando il Napoli? È molto contratto alla consapevolezza dell'importanza della partita, che è fondamentale, penso, per entrambe le squadre. Quindi è una partita in cui tutte e due le squadre sono badano soprattutto a non lasciare agli altri l'iniziativa, mi sembra. Il Napoli gioca in casa e gioca davanti a circa 60.000 spettatori, quindi ha il dovere di tentare di fare un po' di più. Io mi sarei aspettato che pesasse di più sulla Roma, il peso di questa partita. Luca, Maurizio, Pier, chi è che vuole rispondermi? Ma perché dobbiamo dire che Napoli gioca male? È una grande Roma, c'è il ninja al centro del campo che amministra palloni, c'è una fitta ragnatela, la squadra è più libera e se la giocano alla pari. Non è che c'è un primus e gli sfigatini di Roma. Ah! Ecco Digne sicuro al centro dell'area. Sì, rinvio di testa di Digne al centro dell'area di rigore. Di vantaggio su questo. No, chissà dove la sta vedendo, ma noi glielo chiediamo, così evitiamo. Ma lui ha fatto. Che succede? Chi è che urla? Sono dei bambini, chi è? Enrico. Enrico che il signor Telese. La partita nel frattempo giocano a palletta. Io vorrei sapere da De Giovanni un po' di scaramanzia. Innanzitutto vorrei che su detto De Giovanni si geolocalizzasse. È a Vomero, immagino, no? Sulla montagna. Sì, esatto. Sulla montagna. Come le apparelle sono abbassate da Mughini? Come No, vabbè, qui per fortuna la situazione è condivisa, quindi non c'è nessuna chiamata alle forze dell'ordine, insomma, perché la situazione è generalmente condivisa di appartamento in appartamento. Circa le scaramanzie, le mie sono due o tre e nessuna si può dire impunemente in pubblico, insomma, concernono varie situazioni tra biancheria intima e atti personali. Si può dire, per evitare di danneggiare la mia immagine in maniera irreparabile. Se è pulita, si può dire. La famosa mutanda, Maurizio, del 10 maggio. Cioè... Io non vorrei stai parlando di una reliquia. Cioè la mutanda che è su dal 10 maggio, no? Viene riesumata. Il 10 maggio dell'87, perché diciamo le mode sono cambiate in maniera radicale. È finito il primo tempo, quindi sono esente dal rischio di dire qualcosa di molto grave in diretta. Sì, quindi è finito il primo tempo 0-0. Io vi dico la mia, viene qualche pensiero da fare sul Napoli. Poi adesso salutiamo Luca Telese, lo liberiamo, lo mandiamo in trincea per il secondo tempo. Però mi sembra insomma che il fatto che il Napoli debba subire la pressione di questa partita, perché gioca in casa, perché ci sono 60.000 tifosi, perché deve dimostrare, insomma, non sia un bel segnale per una squadra che è forse la più forte oggi sulla strada dello scudetto. No, non direi assolutamente questo. Io non vedo assolutamente che cattivi segnali. Il Napoli sta facendo la partita che deve fare, gioca con pazienza, non gioca come se fosse un'ultima spiaggia, perché non è per il Napoli l'ultima spiaggia, semplicemente un'importante partita di campionato che si gioca in casa. Quindi il Napoli mette in tema il suo gioco, chiaramente è consapevole dell'importanza della partita, ma francamente io non vedo particolari balbettini nel gioco del Napoli. Il Napoli sciorina il suo gioco, fatto di cambi velocissimi di palla, di una squadra molto stretta e da vicino, e quello che è mancato finora è la creazione di serie occasioni da gol, anche se devo dire che Insigne ha avuto sul piede, peraltro sul piede sbagliato, il sinistro, ne ha avuta una soprattutto da dentro il rigore. C'è ancora Luca Telese o è andato? E come no? Come finisce qua. Luca? Come finisce? Ma penso che la Roma piazzerà un golletto se Dzeko si sveglia e poi sarà un assedio del Napoli. E a me piace questi due proprio perni, Koulibaly, tribale, forte. L'anno scorso tutti dicevano che era una pippa, questo è un gigante. Vabbè, poi di vita non ne parliamo. Sì, anche se questa sera, Maurizio, a me Higuain non sta piacendo, nella grandissima ammirazione che abbiamo nervoso, di Higuain. Lo vedo nervoso, molto nervoso. Sì, sì. È un po', sente evidentemente l'importanza della partita, è anche marcato molto bene, per la verità, perché ho visto due giocatori su Higuain in pianta stabile. Condivido con Luca, che saluto con affetto, il discorso su Koulibaly. Koulibaly veramente sta mostrando una classe e una forza fisica che sono da giocatore. Da giocatori di categoria superiore, io sono convinto che la cura di Sarri lo abbia veramente rigenerato. Sì, poi ci scrivono: la Roma si difende in 9, è da tanto tempo che non si vedeva così, nemmeno in Champions con il Barcellona. A parte che con il Barcellona non si è difesa, Pier, e questo è stato il grande errore. Sì, sì. E poi insomma, a me sembra che la Roma stia facendo la partita che deve fare, è il Napoli che sta mancando in qualcosa, però questo è il mio parere, poi ci sono ancora 45 minuti, vedremo come va a finire. Mi sembra che quelli che notavano come arrivati a metà stagione giocando soltanto in 13 potesse esserci qualche problema, forse qualche campanello d'allarme l'avevano visto, mi riferisco al Napoli. Sì, beh, io sai che sul Napoli dico delle cose dal 21 settembre. Perché ho visto il Napoli giocare un calcio grandioso, sicuramente non è stato così contro il Bologna, e quello che ho visto in questi minuti e che mi hai raccontato tu sicuramente va in questa direzione, quindi non ci sono grandi dubbi. C'è anche chiaramente la forza dell'avversario, che non può essere sottovalutata, perché almeno che non abbiamo ormai deciso che la Roma è diventata una squadra della metà classifica che non può mettere in difficoltà Napoli, perché non può mettere in difficoltà le grandi, bisogna anche considerare questo. È comunque uno scontro diretto, anche se certamente i fischi delle ultime partite della Roma l'hanno un po' derubricato, ma è comunque uno scontro diretto, e quindi da un lato si può dire che il Napoli è stato poco lucido, e dall'altro si può sottolineare il fatto che invece la Roma sta giocando essenzialmente in difesa, consapevole dei suoi limiti e magari vogliosa di piazzare il colpo di rimessa. Sì. No? E ordinata quanto serve. Grazie Pier, buona partita. Ciao ragazzi. Grazie per il Gepardo, domani dopo il GR delle 14. Saluto anche Luca Telese, Maurizio De Giovanni, che lascio al secondo tempo di Napoli-Roma. Ciao, grazie. Buonasera a tutti, grazie alla chiamata. E in bocca al lupo a tutti e due. Poi vediamo chi vince. Abbiamo finito qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Andrea Roccabella in regia, Andro Mercù con le sue voci. Carlo Genta torna domani dopo il GR delle 14. Noi ci risentiamo domenica alle 17. Ciao. Buonasera. Quindi avete detto tutto voi, quindi posso anche andare. Vi ringrazio.